ne andiamo a Campi Bisenzio per parlare con un'attivista storica di Campi, delle battaglie, no, aeroporto e contro le nocività più in generale, per presentare, lanciare e invitare un'iniziativa che si terrà mercoledì 17 di dicembre alle ore 21. Non si parla di Natale, ma l'iniziativa è titolata Un altro volo è possibile. Amministratori, sindaci, ex sindaci dei comuni della Piana per parlare di investire su ciò che serve davvero e sì al Parco della Piana. A te la parola per dirci appunto cosa ci si aspetta in questa iniziativa, chi è presente e quali sono i temi sul piatto di questo momento. Ringrazio dello spazio, io mi chiamo Adriana, è tanti anni che sono un'attivista, prima dalle mamme no inceneritori, adesso della battaglia infinita, dovrei dire, del no aeroporto. Per questo seguo l'iter che è in corso, dove appunto è uscita il mese scorso la via che è la valutazione di impatto ambientale, la quale non ci ha sorpreso perché era quello che più o meno ci aspettavamo. Quello che invece ci ha stupito sono le criticità che vengono messe in evidenza, perché puntano il dito su problematiche così gravi che rendono anacronistici tanti avvisi a volte un po' faziosi che annunciano come imminente l'inizio dei lavori. In realtà l'iter procedurale non è concluso, è ancora tutto da vedere, da discutere. Con questo noi siamo dell'avviso che la pista è quanto di più negativo, perché determinerebbe la sparizione dell'unico polmone verde che è della zona e aumenterebbe il rischio delle alluvioni, perché è previsto che viene tombato un tratto del Fosso Reale e la sua deviazione, quando ancora il ricordo delle passate alluvioni è vivo qui, almeno nella zona. La via inoltre parla di monitoraggio epidemiologico della popolazione, vale a dire che siccome sappiamo che gli aerei sono una fonte inquinante e quindi tu ti ammalerai, ti tengo sotto controllo. E quindi mi viene da ridere, perché magari un domani si dovrà pure ringraziare per questa attenzione che ci sarà dovuta. E il progetto inoltre parla di opere di mitigazione per i nuovi sorvolati. Attenzione, non è stato fatto niente in 20 anni per i cittadini di Brozzi, Quaracchi e Peretola, che comunque sono quartieri fiorentini della grande Firenze. Pensate veramente che verrà fatto qualcosa per Capallese, Pratesi e Campigiani? Ma io ho dei forti dubbi che verranno fatte opere di doppi vetri, monitoraggio degli agenti inquinanti, dei temi di aria condizionata per l'estate o di ventilatori. E poi con che criterio? Chi è che decide? Sì, siamo sorvolati, no, siamo accanto a una via di sorvolati, ma noi non ci rientriamo. Cioè, ci saranno tutte casistiche strane, più strane, pertanto per determinare un nulla di fatto. Attenzione, quando vi promettono o verranno a casa a dirvi ste sì, te no, ma sì, ma tu hai diritto, no. Tra l'altro le case verranno sempre di più svalutate nel loro valore a rivenderle, perché comunque è un fatto impattante di rumore e di inquinamento. Quindi da questo appoggiamo sinceramente le amministrazioni comunali che si sono attivate per fare ricorso al TAR contro questo che è per noi uno scellerato progetto. Però chiediamo a tutti di far sentire la propria voce, di essere presente, per esempio l'incontro del 17 presso il Teatro di Campi alle ore 21 è un momento importante, perché è l'occasione per battersi e tutelare le nostre condizioni di vita, se vi sembra poco. Inoltre, come attivista posso dirvi che abbiamo già fatto, bloccando e vincendo contro l'altro progetto, e ci troveranno sempre presenti. Inoltre rinvito a dire anche voi, sempre più a voce alta, che senza la gente non si decide niente.